Cari fratelli e sorelle, oggi vorrei parlare sul Santo Abate Colombano, l'irlandese più noto del primo Medioevo, che con buona ragione può essere chiamato un santo europeo, perché come monaco, missionario e scrittore ha lavorato in varie chiese dell'Europa occidentale. Insieme all'irlandese del suo tempo, egli era consapevole dell'unità culturale dell'Europa nascente. In una sua lettera, scritta intorno all'anno 600 ed indirizzata a Papa Gregorio Magno, si trova per la prima volta l'espressione «Totius Europae», di tutta l'Europa, con riferimento alla presenza della Chiesa nel continente. Colombare era nato intorno all'anno 543 nella provincia di Leinster, nel sud-est dell'Irlanda. Educato nella propria casa da ottimi maestri che lo avviarono allo studio delle arti liberali, si affidò poi alla guida dell'abate Sinel della comunità di Cluain Innis nell'Irlanda settentrionale, dove poté approfondire lo studio delle Sacre Scritture. All'età di circa 20 anni entrò nel monastero di Bangor, nel nord-est dell'isola, dove era abate Comgall, un monaco ben noto per la sua virtù e il suo rigore ascetico. In piena sintonia col suo abate colombano, praticò con zelo la severa disciplina del monastero, conducendo una vita di preghiera, di ascesi e di studio. Lì fu anche ordinato sacerdote. La vita a Bangor e l'esempio dell'abate influirono sulla concezione del monachesimo che Colombano maturò col tempo e diffuse poi nel corso della sua vita. All'età di circa 50 anni, seguendo l'ideale ascetico tipicamente irlandese della peregrinatio pro Cristo, del farsi pellegrino pro Cristo, Colombano lasciò l'isola per intraprendere con 12 compagni un'opera missionaria sul continente europeo. Qui dobbiamo tenere presente che la migrazione di popoli dal nord e dall'est aveva fatto ricadere nel paganesimo intere regioni che erano già cristianizzate, ma ricadute poi nel paganesimo. Intorno all'anno 590, questo piccolo trappello di missionari approdò sulla costa bretone. Accolti con benevolenza dal re dei Franchi d'Anstrasia, l'attuale Francia, chiese solo un pezzo di terra incolta. Ottennero l'antica fortezza romana di Angre, tutta diroccata ed abbandonata, ormai coperta dalla foresta. Abituati ad una vita di estrema rinuncia, i monaci riuscirono entro pochi mesi a costruire sulle rovine il primo eremo. Così la loro rievangelizzazione iniziò a svolgersi innanzitutto mediante la testimonianza della vita. Con la coltivazione e ricoltivazione della terra cominciamo anche la nuova coltivazione delle anime. La fama di quei religiosi stranieri, che vivendo di preghiera e in grande austerità costruivano case e dissodavano la terra, questa fama si diffuse celermente e attrae pellegrini e penitenti. Soprattutto molti giovani chiedevano di essere accolti nella comunità monastica per vivere come loro, questa vita esemplare che ricostruiva la terra e le anime. E ben presto si rese necessaria la fondazione di un secondo monastero. Fu edificato a pochi chilometri di distanza, anche questo sulle rovine di un'antica realtà, in questo caso di un'antica città termale a Luxeuil. Il monastero sarebbe poi diventato il centro dell'irradiazione monastica e missionaria di tradizione irlandese sul continente europeo. Un terzo monastero fu eretto a Fontaine, un'ora di cammino più a nord. A Luxeuil, Colombana visse per quasi 20 anni. Qui il santo scrisse per i suoi seguaci la Regula Monachorum, che per un certo tempo in Europa era più diffuso di quella di San Benedetto, nella quale disegna l'immagine ideale del monaco. È l'unica antica regola monastica irlandese che oggi possediamo. Come integrazione egli elaborò la Regola Cenobialis, una sorta di codice penale per le infrazioni dei monaci, con punizioni piuttosto sorprendenti per la sensibilità moderna, spiegabili soltanto con la mentalità del tempo e dell'ambiente. Con un'altra opera famosa, intitolata De Penitentiarum Misura Taxanda, scritta pure a Luxeuil, Colombano introdusse nel continente la confessione e la penitenza privata e reiterata. Fu detta penitenza tarifata per la proporzione stabilita tra la gravità del peccato e il tipo di penitenza imposta dal confessore. Questa novità della confessione personale privata e ripetuta, tutte queste, e anche la tariffa per le penitenze, destarono il sospetto dei vescovi della regione, un sospetto che si tramutò in ostilità quando Colombano ebbe il coraggio di rimproverarli apertamente per i costumi di alcuni di loro. Occasione per il manifestarsi del contrasto fu la disputa circa la data della Pasqua, dove l'Irlanda seguiva tradizione orientale in contrasto con la tradizione romana. Il monaco irlandese San Colombano fu convocato nel 603 a Chalon-sur-Saône per rendere conto davanti a un sinodo delle sue consuetudini penitenziali e pasquali. Invece di presentarsi al sinodo, egli mandò una lettera in cui minimizzava la questione, invitando i padri sinodali a discutere non solo del problema della data della Pasqua, problema relativo piccolo secondo lui, ma discutere anche di tutte le necessarie normative canoniche che da molti, cosa più grave, sono disattese. E contemporaneamente scrisse a Papa Bonifacio IV, come qualche anno prima già si è rivolto a Papa Gregorio Magno, per difendere la tradizione irlandese. Intransigente come era in ogni questione morale, Colombano entrò poi in conflitto anche con la Casa Reale, perché aveva rimproverata aspramente il re Teodorico per le sue relazioni adulterine. Ne nacque una rete di intrighi e manovre a livello personale, religioso e politico, che nell'anno 610 si tradusse in un decreto di espulsione da Luxeuil di Colombano e di tutti i monaci di origine irlandese che furono condannati ad un definitivo esilio. Furono scortati fino al mare ed imbarcati a spese della corte verso l'Irlanda. Ma la nave si incagliò a poca distanza dalla spiaggia. Il capitano, vedendo in ciò un segno del cielo, rinunciò all'impresa e, per paura di essere maledetto da Dio, riportò i monaci sulla terraferma. Essi, invece di tornare a Luxeuil, decisero di cominciare una nuova opera di evangelizzazione. Si imbarcarono sul Reno e risalirono il fiume. Dopo una prima tappa a Tucken, presso il lago di Zurigo, andarono nella regione di Bregenz, presso il lago di Costanza, per evangelizzare gli alemanni. Poco dopo però Colombano, a causa di vicende politiche poco favorevoli alla sua opera, decise di attraversare le Alpi con la maggior parte dei suoi discepoli. Rimase solo un monaco di nome Gallus. Dal suo eremo si sarebbe poi sviluppata la famosa abbazia di St. Gallen in Svizzera. Giunto in Italia, Colombano trovò un'accoglienza benevola presso la corte reale longobarda, ma dovette affrontare subito difficoltà notevoli. La vita della Chiesa era lacerata dall'eresia ariana ancora prevalente tra i longobardi e da uno scisma che aveva staccato la maggior parte delle chiese dell'Italia settentrionale dalla comunione col vescovo di Roma. Colombano si inserì con autorevolezza in questo contesto, scrivendo un libello contro l'arianesimo e una lettera a Bonifacio IV per convincerlo a fare alcuni passi decisivi in vista di un ristabilimento dell'unità. Quando il re dei Longobardi, nel 612-13, gli assegnò un terreno a Boppio, nella valle della Treppia, Colombano fondò un nuovo monastero che è poi diventato un centro di cultura paragonabile a quello famoso di Monte Cassino. Qui giunse al termine dei suoi giorni, morì il 23 novembre 615 e in tale data è commemorato nel rito romano fino ad oggi. Il messaggio di San Colombano si concentra in un fermo richiamo alla conversione e al distacco dei beni terreni in vista dell'eredità eterna. Con la sua vita ascetica e il suo comportamento senza compromessi di fronte alla corruzione dei potenti, egli evoca la figura severa di San Giovanni Battista. La sua austerità, tuttavia, non è mai fino a se stessa, ma è solo il mezzo per aprirsi liberamente all'amore di Dio e corrispondere con tutto l'essere ai doni da Lui ricevuto, ricostruendo così in sé l'immagine di Dio e ricostruendo proprio così contro la corruzione dominante anche la terra e la società umana. Cito dalle sue istruzioni: se l'uomo userà rettamente di quelle facoltà che Dio ha concesso alla sua anima, allora sarà simile a Dio. Ricordiamoci che gli dobbiamo restituire tutti quei doni che Egli ha depositato in noi quando eravamo nella condizione originaria. Ce ne ha insegnato il modo con i suoi comandamenti. Il primo di essi è quello di amare il Signore con tutto il cuore, perché Egli per primo ci ha amato fin dall'inizio dei tempi, prima ancora che noi venissimo alla luce di questo mondo, così nelle istruzioni capitolo 11. Queste parole il santo irlandese le incarnò realmente nella propria vita. Uomo di grande cultura, ha fatto anche poesie in latino, un libro di grammatica, ricco di doni di grazia, sia come instancabile costruttore di monasteri che come intransigente predicatore penitenziale, spesi ogni sua energia per alimentare le radici cristiane dell'Europa che stava nascendo e con la sua energia spirituale, con la sua fede, con il suo amore di Dio e del prossimo è divenuto realmente uno dei padri dell'Europa che ci mostra anche oggi dove stanno le radici dalle quali può rinascere questa nostra Europa.